del punto de un giovane con trovando tutto città. Sa essere dolce ma anche brutale, l'uomo donna ti amerà. L'uomo donna va volando, le braccia consente la posizione che lui preferisce dopo quella del visionario. Devi cambiare le tende, l'uomo donna eccolo qua. Devi combattere i peli superflui, l'uomo donna li sconfiggerà. Le doppie punte non avranno più scampo e mai più buchi nei tuoi collan. E se la sera avrai mal di testa, l'uomo donna ti capirà.